ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi prendiamo il primo caffè della mattina con il dottor Attilio Speciani, allergologo immunologo clinico a Milano. Dottor Speciani, buongiorno. Buongiorno, il caffè l'ho già preso. Lo so che arrivo in ritardo, perché a considerare tutto quello che lei mangia a colazione, che ci racconta nel dettaglio quando viene a trovarci la bufala in tavola, ho detto qua a quest'ora il dottor Speciani è già arrivato alla fine della colazione, chissà da quanto tempo mangia per mangiare tutte quelle buone cose. E per essere efficiente sì, bisogna svegliarsi. Certo. Il caffè ci vuole, io sono un amante del caffè, mi piace, poi ci sono, bello, gli ultimi anni hanno anche dato degli ottimi spunti sull'attività positiva. Bello. La tazzina di caffè che ci sveglia ma ci regala anche salute, non le chiedo neanche se vuole latte, zucchero. No, caffè così com'è assolutamente, ma tra l'altro a me ogni tanto questo tipo di logica lo spiego ai miei pazienti, no? Perché le persone pensano, io ma tanto metto solo due cucchiaini di zucchero, ecco. Allora, noi normalmente in questo momento qua, sia io sia lei Nicoletta, abbiamo circa 2,5 grammi di glucosio che circolano nel sangue. Se io metto due cucchiaini di zucchero, che sono circa 12 grammi in liquido caldo che è il caffè, e lo bevo, nel giro di pochi minuti, ma neanche, proprio 30 secondi, noi abbiamo improvvisamente 12 grammi di glucosio e fruttosio che girano nell'organismo. Una cosa pazzesca, cioè l'organismo questa cosa la sente come un picco, che è vero che è dolce, che è buono, che fa piacere al palato, tutto quello che vogliamo, ma dentro nell'organismo è un elemento potente. Ma posso dire, queste cose, quando abbiamo questi picchi che si innalzano, in realtà si formano delle sostanze che si chiamano, attenti al nome, glicotossine o allarmine. Non si chiamano pacificatori, gentili personaggi, capito? Sono glicotossine o allarmine, la scienza li chiama così perché fanno un bel putiferio. Allarmine, sostanze glicanti legate allo zucchero. Ma possibile, veramente? Ma e se ne metto uno raso? È uguale, cioè c'è lo stesso un picco, e qual è? L'abbiamo discusso tante volte. Sì, lo so se che... Se mangiamo il cucchiaino raso, il dolcetto, il dolce, insieme ad altre cose, questo rallenta la velocità di assorbimento, ma è classico, il caffè viene ingoiato al volo, è bello dolce, no? Che, no, proprio no. E tra l'altro credo che in questa epoca, in questo momento, in questo periodo storico legato alla pandemia, al SARS-CoV-2, al Covid, questa cosa in realtà è veramente importante. Come? Adesso cosa c'entra il Covid con il nostro caffè del mattino? Me lo fa andare per traverso? No, io te lo lascio andare nel posto giusto. Non le dico se ho aggiunto mezzo cucchiaino o no, Non la interrogo. No. Però ecco, noi possiamo dire che al di là davvero della paura sociale, dei problemi che sono nati, però il Covid è stato ed è un banco di prova potente assolutamente su tutti i piani. Si è scoperto, ad esempio, che non è tanto l'infezione in sé, perché molti hanno detto, ma in effetti poi alla fine me la sono cavata con un po' di raffreddore, con 2 giorni di tosse, addirittura in modo asintomatico. Adesso tutti conoscono la parola Fauci sintomatico, no? Che vuol dire con pochi sintomi. In realtà il problema vero, quindi la letalità, la mortalità, sono legati alle persone che hanno avuto questa tempesta citochinica. Citochine, esatto. E l'aggregazione, cioè il fattore di aggregazione, sono queste sostanze di cui abbiamo parlato poco fa, che hanno nomi fantasiosi e buffi, HMGB1, metilbiossale e quello che possa essere, in realtà sono dei facilitatori dell'invasione del virus e anche della loro distruzione. Ma io credo che, intanto che siamo qua a prendere il caffè non zuccherato, sia utile magari capire che cosa vuol dire zuccheri. Infatti. infatti questo è un po' il tema, perché noi abbiamo un ormone, si chiama NPY, poi quegli inglesi dicono NPY, che fa più bello, però che ci fa cercare gli zuccheri. Abbiamo una qualcosa che ci fa cercare gli zuccheri, vuoi che non siano giusti? Sì, secondo me è che non sono giusti sempre. Allora, perché zuccheri in effetti può voler dire sia lo zucchero, quello che uno dice bianco, ma anche quello colorato, anche lo zucchero di canna, piuttosto che il miele, molti di questi sono più sani, un po' più sani degli altri, ma alla fine sono sempre prodotti dolcificanti. La frutta, individualmente, la frutta è ottima, meravigliosa, fantastica. Poi ci sono persone che si mettono davanti alla televisione e mangiano 3 chili di mandarini, no? Cioè che individualmente, se uno non fa attività fisica, eccetera, possono essere un eccesso zuccherino. Quindi in realtà non esiste cibo contro, ma individualmente va assolutamente personalizzata la cosa. Dirò anche la mia, ed è uno dei motivi per cui io continuo a sostenere a dispetto di tutti che mangiarsi dei dolci sani è una cosa buona. Ma sai che sul nostro blog, quando mia moglie mette su una ricetta di un dolce, come? Ma voi parlate contro di zucchero, poi mostrate i dolci? Ma certo, perché quando puoi mangiarti il tuo dolce deve essere buono, deve essere come quello fatto dalla zia Pina, è gustosissimo, è veramente gustoso davvero. Quindi togliere gli zuccheri, la gente a volte lo fa se ha paura, no? Poi lo fa per 15 giorni e poi manda a quel paese il medico, il nutrizionista, le indicazioni, perché fanno parte della nostra vita. Io lo so, noi abbiamo mangiato qualche volta alla bufala in tavola anche delle cose ottime grazie alle cose che hai organizzato, e quindi Nicoletta manteniamo queste indicazioni: individualizzazione, personalizzazione, ma capacità di filtrare queste cose. Dottor Speciani, quindi nella nostra alimentazione quotidiana andiamo con il suo aiuto a capire, a vedere quali sono le sostituzioni che possiamo fare per avere un equilibrio alimentare e una dieta che non ecceda negli zuccheri. Già il fatto, questo è fondamentale, nel senso che la dolcificazione di per sé è un elemento problematico. Io vengo da una famiglia assolutamente con una familiarità diabetica o di obesità, di tutto quello che possa essere, e so che quindi devo controllare gli zuccheri, devo evitarmi gli eccessi, ma soprattutto smettere di dolcificare. Cioè, io preferisco avere un'indicazione personalizzata sui miei valori specifici di considerazione di come sono gli zuccheri dentro di me e dire: bene, io ho 3 pasti nella settimana in cui posso mangiarmi un dolce, a quel punto il dolce me lo godo. Certo. Se io devo dire che mi godo il cucchiaino nel caffè, tra un cucchiaino nel caffè tutti i giorni, che invece fa male, e 3 dolci veri, 3 pezzi di magari un croissant meraviglioso, e una torta fatta dalle persone care che te le fanno bene, piuttosto che non dagli ospiti che spesso lei, Nicoletta, che indicano dei tragitti culinari sicuramente ottimi, preferisco scegliere quelli. Però in modo personalizzato, perché io sono così, magari mia figlia è diversa, magari certo. È un mio amico. Quindi rinunciamo al cucchiaino di zucchero nel caffè a favore di un buon dolce che possiamo consumare con grande soddisfazione durante la settimana, un paio di volte, un dolce fatto per bene, magari utilizzando anche, come lei ci ha suggerito tante volte, delle farine integrali. Ci sono delle ricette magnifiche che si trovano anche su internet che ci aiutano ad apprezzare il dolce utilizzando anche meno zucchero. Poi ci ha parlato della frutta. Adesso è un periodo dell'anno in cui la frutta è particolarmente zuccherina. Pensiamo all'uva, pensiamo ai fichi. Ma questo cosa significa? Che me ne devo privare? Assolutamente no, vale esattamente lo stesso discorso. Io il weekend scorso ho raccolto gli ultimi fichi delle mie piante, ce ne ho di alcuni belli, verdini, piacevoli, una pianta di fichi neri che hanno quasi un profumo, un sapore di fragola. Me ne sono fatto una scorpacciata. Però intanto quella mattina ero andato a correre, poi li ho goduti in maniera piena, perché so che è uno dei momenti in cui posso mangiare anche un eccesso di sostanze zuccherate. Dottor Speciani, lei ha parlato molto della personalizzazione, ma abbiamo modo di capire? Sì, devo devo dire che la ricerca sta evolvendo in modo ampio, rapido. Il Covid è stato uno degli elementi di spunto da questo punto di vista e consente di evidenziare quali sono i danni dati dagli zuccheri, quindi tutti gli zuccheri, prima che compaia una situazione diabetica, ad esempio. È un spunto forte, importante, perché caratterizza una personalizzazione che rende per ogni persona la possibilità di capire qual è la quantità di frutta, qual è la quantità di dolce, qual è la quantità di zucchero che puoi mangiare in una settimana, in modo da evitare la presenza di danni. Parliamo di test che attualmente sono usati in ambito specialistico, non sono ancora diffusi, ma come tutti gli esami che hanno un loro percorso, presto lo saranno anche a livello generale. Quindi la frutta è una cosa ottima, sana, anche i frutti cosiddetti, tra poco li sto iniziando a pensare arancione, quando prima ha parlato della frutta zuccherina mi sono venuti in mente i prossimi cachi. Buonissimi. Perché siamo lontani, quindi c'ho un desiderio di spremuta di cacco, che viene una roba buonissima, dolcissima, una cremina deliziosa, che sta benissimo. Che sta benissimo anche con la marmellata di marroni e anche con un ciuffetto di panna montata. Abbiamo detto non mettiamo lo zucchero nel caffè. Dottor Speciani, buona mattina anche lei, buona giornata. Grazie, noi ci sentiamo presto a mezzogiorno e un saluto dalla vostra Nicoletta. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.